Allora, buonasera a tutti. E, insomma, a questo punto, prima di tutto, grazie ai presenti, verrebbe da dire pochi ma buoni, oppure frasi fatte di questo tipo per cercare di, come dire, alleggerire un po'. Insomma, non siamo tantissimi, però vale la pena di essere qui, e quindi grazie a voi di essere presenti, e per prima cosa direi grazie davvero agli ospiti di questa serata. Partirei da Stephen Forti, che è l'autore del libro di cui parleremo questa sera, che da Barcellona è arrivato ieri e sarà in Italia per alcuni giorni per un tour di presentazioni e anche di altre iniziative legate alla ricerca. Aldo Giannuli, che tutti voi praticamente credo conoscete, perché siamo una serata tra amici, però insomma, docente di storia contemporanea all'Università Statale di Milano, storico tra i più produttivi e tanto, guarda, vabbè, lo sapete tutti, okay. E soprattutto i Sesto Marelli, che sono un gruppo, come dire, verrebbe da dire vicini di casa, perché hanno il nome con sé, e che da cui speriamo che, insomma, questa prima serata, anche se non siamo tantissimi, possa essere una prima volta, perché come lapsus ci piace sempre mischiare l'aspetto più didattico, l'aspetto più della presentazione tradizionale, con anche inserti musicali ed artistici, quindi insomma speriamo che sia un primo esperimento. Ripeto, taglio gli onori di casa, perché tanto sapete tutti che questo evento è stato promosso dalla città, Polis, Lampi e Lapsus, e a questo punto andrei subito al libro dicendo, anzi no, faccio un ultimo ringraziamento, però questo ci tengo a farlo, e lo faccio a Steven, che ha permesso di creare questa situazione, nel senso che è lui che ha avuto l'idea di invitare i Sesto Marelli a, come dire, a far parte della serata, e quindi, nonostante fossimo vicini di casa, abbiamo avuto bisogno di uno studioso italiano emigrato in Spagna per metterci in contatto, e secondo me è una cosa bella, quindi lo ringrazio. E veniamo al libro. Un libro secondo me molto molto particolare ed interessante, e cercherò brevemente, per introdurvi la serata, di spiegarvi perché. In parte l'abbiamo già detto, e c'è il libro di un autore, un giovane ricercatore italiano che vive in Spagna ormai da molti anni, la sua biografia la vedete proiettata, e che affronta la comparazione tra tre vite di personaggi, appunto, che vengono messi a confronto tra Italia, Spagna e Francia a cavallo tra le due guerre. Un esperimento, un lavoro di ricerca storica che ha un grosso valore per quanto riguarda la ricerca storica contemporanea, per quanto sia magari su temi alle volte conosciuti, anche se vedremo il libro affronta in maniera nuova e va alla ricerca di temi che non erano propriamente noti, o comunque insomma corregge molti errori precedenti, è davvero un esperimento interessante, perché mette a confronto appunto tre personaggi, ma che non sono solo tre personaggi, sono tre contesti paralleli che ovviamente sono strettamente legati, ma che hanno caratteristiche anche diverse. E non vi nascondo che per chi si occupa di storia oggi, un lavoro di questo tipo ha davvero un valore non indifferente, anche perché Stephen fa un'operazione nel libro molto interessante, e cioè è un libro scritto in tre lingue praticamente, perché chiaramente la lingua principale è lo spagnolo, però in molti documenti, soprattutto quelli legati ai bombacci, sono in italiano. Ci sono i documenti francesi legati a Paul Morion, Marion, e ci sono i documenti spagnoli legati ad Oscar Pérez. Quindi veramente un libro che, insomma, tiene insieme moltissimi aspetti che oggi chi si occupa di storia dovrebbe tenere presente. Altro tema che lo rende un libro significativo è il fatto che appunto affronta il percorso di questi tre personaggi a cavallo tra le due guerre, che però nascono alla fine dell'Ottocento e quindi vivono tutto il trasporto degli anni precedenti alla Prima Guerra Mondiale, tutto il fortissimo dibattito culturale e di pensiero politico che caratterizza quegli anni, e che quindi in maniera ognuno particolare vivranno questo passaggio da una prima militanza socialista, comunista, comunque legata a quell'universo culturale, passeranno invece a militare nelle file di quelli che saranno i movimenti fascisti dei rispettivi paesi. Un'esperienza, come dicevo prima, peculiare per ogni personaggio, ma anche appunto che può essere messa a comparazione, e che ci spinge però anche ad una riflessione legata al presente. È di ieri o dell'altro ieri, per esempio, un post su un noto blog di un noto movimento politico di successo in questo momento in Italia, di tal Arrigo Petacco, che fa, diciamo, un'operazione culturale molto discutibile rispetto alle responsabilità di Mussolini, anzi lui sostiene le mancate responsabilità di Mussolini rispetto all'omicidio Matteotti. Ecco, Steven è partito dal libro di Arrigo Petacco, che lo ha indignato sostanzialmente, perché ne ha scritti tanti, verrebbe da dire purtroppo, anche se poi ognuno è libero di scrivere quello che vuole. Esatto. È partito da questo libro che ricostruiva la storia, la biografia di Bombacci, per cercare di mettere ordine in quello che questo libro proponeva, perché compiva una serie di errori e di abusi storici veramente importanti rispetto alla vita di questo personaggio molto amico di Mussolini, veramente un personaggio complesso nella storia del socialismo e poi del fascismo italiano. E quindi vediamo come, insomma, un libro di questo tipo, e anche se volete, per quanto siamo pochi, un'iniziativa di questo tipo ai nostri occhi serve per dare un piccolo contributo, per cercare appunto di mettere un po' di ordine in questi episodi di abuso pubblico della storia che ancora oggi avvengono e che poi vengono, come dire, anche letti e usufruiti da milioni di persone, perché il blog a cui facevo riferimento è il blog di Beppe Grillo, è un blog che ovviamente ha una rilevanza politica e culturale importante. E quindi, insomma, mi ha divertito che due giorni fa aver letto questo post, e stasera a partire, cioè nelle prime pagine del libro di Steven, lui fa proprio riferimento a questo libro, da cui è un po', è stata un po' la scintilla che lo ha portato a prendere via per il suo lavoro. Vado a chiudere, anche perché vorrei che poi fosse Aldo a dire qualcosa in più sul libro. Però altro punto su cui il libro è interessante è che attraverso, appunto, sempre le vite di questi tre personaggi, però ci permette anche di fare un viaggio attraverso quello che è il pensiero politico del Novecento. In vari punti del libro torna questo tema, non è appunto solamente la ricostruzione di tre vite, di tre biografie, è anche un viaggio attraverso il travaglio ideologico, mi permetto di dire, che il Novecento affronta. E infatti Steven nelle conclusioni dice, secondo me, una cosa molto importante, e cioè che il suo libro potrebbe essere, fra virgolette, rischioso, perché attraverso questo viaggio anche tra le ideologie potrebbe un po' spingere il lettore contemporaneo a cadere nella trappola degli opposti estremismi, e cioè da comunisti a fascisti lo stesso errore, sono passati da una parte all'altra della barricata, ma alla fine, appunto, per la lettura che purtroppo oggi molto spesso viene data, si ricorre a questa categoria degli opposti estremismi. Ecco, un libro come questo ci aiuta a non cadere in questo errore, perché ricostruisce davvero con precisione il dibattito culturale dell'epoca. Un dibattito culturale che non sembra, ma ancora molto da dire ai giorni nostri, per quanto chiaramente i giorni nostri siano caratterizzati da un contesto completamente diverso, ma che, dice sempre Steven, poi correggimi se ho un'interpretazione sbagliata, ma che mancano un po' di quel dibattito culturale politico che animava quegli anni. Quindi, ripeto, non si tratta di ridurre questo libro alla storia di questi personaggi che passano appunto ad opposti estremismi, ma si tratta di coglierne il valore del dibattito culturale dell'epoca, un dibattito culturale che, come dicevo, molto spesso oggi manca e che quindi, insomma, nel nostro piccolo cerchiamo di rianimare o di tenere vivo per quello che si può. Basta, più o meno io mi taccio, perché così parlano le persone più importanti. Però prima di far intervenire Aldo, diamo il via a questa serata articolata appunto in un dialogo tra musica ed interventi, e quindi ascoltiamo il primo brano, i primi due brani dei Sesto Marelli. Due parole diranno prima e un brano. Ok, che diranno due parole prima. Io però, prima di lasciarli alle due parole e al brano, vi consiglio il loro album, che tra l'altro è disponibile questa sera. Sono pezzi loro, giusto? Correggimi se sbaglio. Loro rivisitano in chiave folk tutta una serie di brani del patrimonio musicale e politico anche dell'italiano, e non solo, ma appunto in questo disco fanno brani loro. Però io lascio il microfono a Roberto, perché è la cosa migliore, e li ringrazio davvero del loro contributo. Due parole, perché anche noi teniamo molto a ringraziare l'organizzazione, Martino e Steven, lo dobbiamo ringraziare per mille motivi che non so elencarle ora. Può essere ambiguo. piacere aver fatto la sua conoscenza, che ancora abbiamo avuto così, e dei brani del nostro album, che tra l'altro ha promosso fortemente in Catalogna. Cominciamo con questo, che la festa cominci, non è sicuramente un brano che in qualche modo si colleghi direttamente alla sua opera, però è un brano che parla di tradimento e di rivincita, quindi comunque crediamo che possa essere intonato alla presentazione. E grazie di essere qua anche. Che la festa cominci, ubriaco danzerò sul tuo cadavere, mia sposa. Non è stato difficile, se per dire il tuo profumo ci ha pensato. La nota, la nota, la nota. Lasciamo pure la parola alla cultura. Dunque, no, il libro di Steven è importante per varie ragioni. Intanto perché fra gli storici c'è un dibattito piuttosto acceso sul se occorra fare la comparazione o no, cioè comparare episodi, personaggi, fenomeni più o meno simili di paesi diversi. Gli storici più tradizionali legati alla scuola, soprattutto alla scuola crociana, però anche quelli di scuola marxista, più tradizionali, non amano la comparazione, preferiscono l'analogia, cioè l'episodio simile che ha avuto un andamento grosso modo uguale a quello di un episodio successivo, che dal quale sarebbe possibile vincere delle regole di comportamento. Ad esempio, la crisi del 2008 è la ripetizione di quella del 29 o no? E invece la comparazione non solo avviene fra più episodi, non solo due o tre, ma soprattutto di paesi diversi, e cerca non solo le conferme, cioè le similitudini, cerca anche le differenze, perché attraverso il confronto fra similitudini e differenze è più possibile capire quali siano le ragioni dei comportamenti. In questo caso noi abbiamo di fronte tre personaggi che Steven compara fra di loro perché hanno dei punti di contatto. Poi vi dico a cosa ci serve, dove si arriva con questo tipo di operazione. Il primo è Nicola Bombacci, dei tre probabilmente quello politicamente più significativo, che ha avuto il ruolo di maggiore spicco nel movimento socialista cui è appartenuto il PSI prima, il Partito Comunista appena fondato subito dopo. Passerà nell'immediatezza, pochi anni dopo la fondazione del Partito Comunista, passerà allo schieramento fascista, per la verità senza avere particolari incarichi di spicco o comunque funzioni particolari. Dopo seguirà, personaggio ormai quasi dimenticato, seguirà Mussolini a Salò e Malvieni incoglierà, perché parteciperà anche lui alla colonna che scappa verso la Svizzera, verrà arrestato con Mussolini e finirà a piazzare Loreto. Nome esecrato della tradizione socialista e comunista italiana, emblema del traditore. Questo libro si potrebbe anche chiamare I rinnegati, i traditori, questo è. Paul Marion, anche lui, passa per il Partito Comunista Francese, col quale rompe, però un po' dopo, rispetto a Bombacci, nel 29, praticamente in coincidenza con la crisi, avrà un periodo in cui andrà peregrinando per organizzazioni diverse, fino a quando poi non aderirà al PPI, al partito fondato, al partito di destra, fondato da un altro ex dirigente comunista, Doriot, che appunto finirà poi anche lui a fianco dei fascisti. Infine Oscar Pérez Solis, anche lui nasce sostanzialmente dal Partito Comunista Spagnolo, c'ha qualche ascendenza socialista, ma sostanzialmente diventa un personaggio più un Partito Comunista Spagnolo, e anche lui poi alla fine finisce con i falangisti. Tutte e tre figure emblematiche di traditori, però poi se vai a vedere nel merito, perché questi hanno avuto questa svolta? Nessuno di questi tre ha avuto vantaggi materiali. Bombacci diventerà rapidamente un personaggio dimenticato e anche a Salò non riceverà nessun particolare incarico, nessuna prebenda. Paul Marion forse è l'unico che avrà un breve momento di fortuna a Vichy, però capirai, con l'occupazione tedesca, poi una cosa durata manco due anni, insomma, anche meno. Quindi anche lì non è che abbia avuto, e comunque questo premio arriva oltre 10 anni dopo la sua defezione, quindi non è nemmeno da mettere in relazione. E anche Oscar Perez Solis non avrà nessuna particolare gratificazione dalla Falange. Perché? Allora, perché lo hanno fatto? Ecco, la spiegazione del tradimento non spiega molto. La verità è questa, la verità è che noi pensiamo in termini di ideologie come sistemi compiuti. L'idea è quella, le ideologie politiche, nella nostra esperienza del Novecento, sono state vissute come religioni civili e quindi il passaggio da una parte all'altra viene vissuto come l'abiura di una fede. In realtà però, ecco, fino a un certo punto regge l'analogia con la religione. La religione è un processo molto più lento, ha una caratterizzazione molto più forte, è molto più, soprattutto si radica in un'epoca storica in cui i processi erano normalmente più lenti e soprattutto non ha verifica pronta. Il sé, nell'aldilà c'è Maritù, Maometto, Allah, questo non è verificabile empiricamente. Viceversa, le ideologie politiche hanno invece spesso una verifica in tempi molto brevi e quindi l'analogia fra fedi religiose e fedi politiche regge fino a un certo punto, anche perché mentre anche i sistemi religiosi non sono chiusi e monolitici come si autorappresentano, ma in realtà sono esposti a influenze, soprattutto a scissioni, sono però meno esposti delle ideologie politiche a influenze reciproche. In realtà le religioni sono alcuni ceppi che sono andati avanti per lo più come alberi che si sono biforcati di volta in volta. Voi avete un unico ceppo monoteista, che è quello ebraico, da cui si distacca prima il cristianesimo, poi dal cristianesimo, diciamo, dalla fusione con alcune religioni locali della penisola arabica, l'islamismo, e così l'induismo, e così il buddismo, eccetera. Cioè, grosso modo, avete delle cose che hanno una loro stabilità. Viceversa, le correnti politiche spesso si influenzano a vicenda e noi ce le rappresentiamo come cose, come monoliti chiusi, ma in realtà così non sono. E soprattutto noi immaginiamo che al massimo possano esserci influenze fra ideologie contigue, perché in testa abbiamo una specie di riga lungo la quale disponiamo da destra verso sinistra, prima i fascisti, poi i conservatori, poi i liberali, poi i cattolici progressisti, poi i liberali di sinistra, poi i socialisti, i comunisti, gli anarchici, eccetera, eccetera. E quindi è del tutto inimmaginabile che comunisti e fascisti, che sono i due poli, possano influenzarsi, se non con questo discorso estremamente superficiale degli opposti estremismi. In realtà il discorso è diverso. Ci sono una serie di elementi, di problemi che si inseguono fra di loro e che attraversano le varie ideologie. In particolare, il movimento socialista è attraversato da due problemi. Uno è quello che appunto dà il titolo al libro, il peso della nazione, il peso della nazione. Il vero problema del movimento socialista è stato come facciamo a tenere insieme il principio di nazione e quello di classe. La soluzione pura, ortodossa, quella di Bordiga per esempio, è la negazione di qualsiasi valore al principio di nazione, che è solo una mistificazione della borghesia, e l'unico punto di riferimento è il principio di classe. Questo però in realtà non è che funzioni proprio così, perché movimenti di massa importanti hanno carattere nazionale. Pensate per esempio ai movimenti di indipendenza coloniale, lì, se vuoi avere un rapporto con quei movimenti di massa, devi accettare il discorso della, cioè, se vuoi avere un rapporto con i palestinesi oggi, non puoi non porti il problema dello Stato palestinese. Quindi in qualche modo il problema della nazione che tende a farsi Stato è un problema che non è affatto concluso con l'Ottocento, arriva ad oggi. E questo è un aspetto che tormenta il periodo socialista, ci sarà in tutto il movimento sociale, ci sarà l'austromarxismo che tenterà una mediazione con le nazionalità che compongono l'impero austro-ungarico, ci sarà un dibattito molto forte anche nel partito russo, dove, strano a dirsi, per una volta la cosa più aperta e più in qualche modo avvertita sul problema della nazionalità la scrive Giuseppe Stalin, che ha scritto l'unica opera di qualche accettabilità scritta da Stalin, è quella sul principio della questione sul principio nazionale, scritta nel 1912. Peraltro questo poi non coinciderà per niente con la prassi di Stalin una volta al potere, vedi il conflitto con i georgiani, con i tatari di Crimea, eccetera eccetera. Quindi questo problema ci sarà, il problema del rapporto con l'identificazione nazionale della stessa classe operaia è un problema che spacca gravemente non solo il movimento socialista e comunista, ma anche gli anarchici, anche gli anarcosindacalisti. Un pezzo di anarcosindacalisti finirà a fianco degli interventisti della Prima Guerra Mondiale. E questi personaggi, è proprio sul principio di nazione che è già presente nel dibattito ed è presente in alcuni correnti del movimento socialista e poi del Partito Comunista, che hanno questa, se volete, deriva che li porta verso i fascisti. C'è poi un altro punto di contatto importante fra le sinistre socialiste, poi diventate partiti comunisti, e la destra. Qui Steven dedica, lo nota, però ci passa più velocemente, ed è la critica del parlamentarismo liberale. Guardate, se voi leggete i testi di Morat, il fondatore della Action Française, e di Lenin, la critica al parlamentarismo, guardate che differenze ne trovate veramente poche. Poi ciascuno vuol fare una cosa di in positivo, Lenin vuol fare i soviet e Morat invece vuole fare una dittatura di tipo fascista, vabbè, è un altro paio di maniche, ma attenzione, perché questa critica delle istituzioni liberali è comune, e non è comune solo a, diciamo, alla sinistra comunista e fascisti, perché per esempio gli anarchici, per esempio settori cattolici, per esempio persino pezzi di sinistra liberale sono attraversati da questa critica, basta leggere Gobetti per rendersene conto. Quindi attenzione, il vero problema è che le ideologie svolgono una loro funzione, e la stupidaggine alla fine delle ideologie è un'ideologia fra le più stupide, ma il problema è un altro, il problema è l'uso e le potenzialità che ha lo strumento ideologia. L'ideologia il più delle volte si mescola, affronta gli stessi problemi e ha continuamente fiumi carsici che scorrono sotto pelle, per cui un problema te lo puoi vedere, o una soluzione, un'idea, te la puoi vedere rispuntare in ambienti politici e culturali molto distanti da quelli di origine. Questo non lo cancelli solo con la pratica del traditore, poi c'è questa liturgia del traditore, è una delle cose che serve di me, visto che oggi il Movimento 5 Stelle processa due deputati espellendoli perché non hanno pagato le quote. A me questa idea di affrontare i dissensi politici mettendolo sul piano del non hai pagato il biglietto d'ingresso non è mai una soluzione accettabile, tutto sommato. Cercherò di far presente questo anche sul mio blog. È una cosa che impedisce una maturazione politica. E questo libro ci dice, guardate, che i problemi sono molto più profondi di quanto non li risolva con l'invettiva verso il traditore. La scomunica verso il traditore non risolve niente. Il vero problema è che noi dobbiamo capire che che è arrivata la fase non del rigetto dell'ideologia, ma di una critica dell'ideologia come strumento utilissimo, ma perfettibile e con molti aspetti pericolosi, come strumento a doppio taglio. Per cui improvvisamente una cosa che è di sinistra te la puoi trovare dall'altra parte. Ecco, da questo punto di vista, come libro, è un libro insolito, provocatorio, che immagino non piacerà molto a parecchi miei colleghi che vedranno questa impostazione come un'impostazione eretica e scarsamente accademica. Ecco, questo non è un libro accademico, sicuramente, è un libro che pone una serie di problemi, richiama esplicitamente il metodo comparativo così contestato dalla maggioranza degli storici tradizionali, richiamando per esempio la comparazione fra i tre New Deal, quello italiano, quello americano e quello tedesco degli anni 30, il libro uscito 5 anni fa. Vabbè. Bene, questo è un modo diverso di porci i problemi in sede storica, che però forse ci può aprire alla comprensione di cose che finora abbiamo respinto. Diciamo la verità, c'è una serie di verità che sono scomode. Io ricordo una volta Trombadori che disse: ah, io non riesco a sopportare queste idee, non mi capacito di questa idea che un mostro come il fascismo sia venuto dalle viscere del socialismo. E invece no, bisogna capire il perché può accadere una cosa del genere. Ecco, io non sono molto soddisfatto della produzione storiografica più recente, però libri come questo mi inducono a sperare che ci sia una generazione di giovani storici che forse riescono ad aprire un po' la finestra, a far entrare un po' di aria fresca e a dissipare l'odore di muffa che nei nostri dipartimenti è sempre più presente. Grazie. Yeah. parola, però due cose su di te le devo dire. Perché sì, anche io avrei da dirlo. No, allora, ringrazio Aldo, ringrazio Sesto Marelli, e però prima di per introdurvi Stephen Forti, devo dirvi che Stephen Forti non è solamente un giovane ricercatore italiano in Spagna, perché Stephen è veramente un personaggio molto molto particolare, mi sento di dire, perché no, è veramente una persona di una vitalità culturale notevolissima, inarrestabile. Nel senso che, oltre ad aver fatto, portato avanti questa ricerca, che comunque, insomma, di lavoro credo che gliene abbia richiesto parecchio, è animatore di un programma radiofonico, anzi sì, un programma radiofonico che si chiama Lo Zibaldone, dedicato alla comunità italiana di Barcellona. Partecipa al premio Tenco in Italia, segnalando un sacco di artisti. Scrive su una quantità di riviste che non si possono elencare, insomma. Alcuni non si possono nominare, esatto. Insomma, è veramente un personaggio molto molto interessante e stimolante, per cui, come dire, introducendolo gli faccio davvero i complimenti, perché, come dire, oggi come oggi mangiare di cultura e farlo in maniera vitale, in maniera vivace e in maniera anche seria, perché comunque è uno studioso, come anche stavolta nel suo intervento, molto molto molto molto serio, pur essendo giovane, per quelli che sono i canoni a cui siamo abituati soprattutto in Italia, insomma, penso che sia un merito che va sottolineato, e ti lascio volentieri il microfono. Beh, grazie davvero per questa presentazione, per tutti questi complimenti, insomma, adesso vedremo se mi merito. No, io volevo ringraziare, insomma, è d'obbligo e è giusto che sia così, e lo sento davvero, Martino e Lapsus per l'organizzazione, Aldo e Sesto Marelli per essere qui. Tra l'altro, il cantante di Sesto Marelli, insomma, una nota in più per dimostrare che non sia un caso che oggi sia qui con noi, scrisse una tesi di laurea tanti anni fa su Eliade, un altro personaggio che ha avuto a che fare con il fascismo da non più che militanza politica, ma anche in parte dal suo punto di vista intellettuale. Passando invece adesso al libro, ringraziarvi per la, insomma, essere qui questa sera. Immagino che, tra l'altro, essendo un libro scritto in spagnolo, insomma, questa, diciamo, questa serata possa sembrare un po' particolare, però insomma, se dà il caso che me l'abbiano pubblicato là e l'abbia scritto lì, quindi insomma, in realtà è anche un po' una critica per il sistema universitario italiano. In fin dei conti, una persona si forma qui e deve andare all'estero per poter pubblicare delle cose. Però questo è un'altra questione. E mi ricordo quello che diceva Martina invece all'inizio, cioè Arrigo Petacco. A me è sempre interessato molto sapere da dove partono delle ricerche. E nel mio caso è stato proprio, ancora ai tempi dell'università, una quindicina d'anni fa, un regalo di un amico che mi regalò questo libro, questo romanzo quasi, di Arrigo Petacco, intitolato Il comunista in camicia nera, dedicato a Nicola Bombacci. E lo lessi, e il libro comunque mi interessò, cioè mi interessò la vita di questo personaggio, non il libro in sé, perché il libro in sé è pieno di errori, di imprecisioni, un'interpretazione criticabile assolutamente, e così via. E mi domandai se la vita di Bombacci era davvero unica e irripetibile, insomma, se Bombacci era una rara avis, come si direbbe con termine latino. E in realtà, quindi, insomma, sono andato un po' a vedere se in Italia, ho cominciato una ricerca per vedere, ma in Italia ci sono stati altri dirigenti di partiti di sinistra, cioè l'eterogeneo mondo della sinistra politica e sindacale, dai socialisti, ai comunisti, agli anarchici, ai sindacalisti rivoluzionari, che nella prima parte del secolo sono poi passati armi e bagagli al movimento per il regime fascista. Sì, ce ne sono stati molti. E ho trovato almeno una ventina di dirigenti di prima e di seconda fila che hanno abbracciato il fascismo, e soprattutto che lo hanno fatto non solo per opportunismo, quindi, diciamo, salendo sul carro del vincitore nel momento in cui si instaurò il regime, ma apparentemente anche per delle ragioni ideologiche, per fede, per passione politica. Quindi, insomma, mi sembrava che ci fosse una questione, si ponesse una questione che valesse la pena studiare. Ma poi, appunto, come Aldo parlava della questione dell'unicità delle storie nazionali, spesso si dice che la storia di ogni paese è ripetibile, indi per cui, insomma, le comparazioni hanno senso fino a un certo punto. Ma mi mi sono domandato, ma negli altri paesi, o almeno i paesi che sono relativamente vicini all'Italia per quanto riguarda la storia contemporanea, la lingua, la cultura, la diffusione delle culture politiche, come in questo caso due paesi come la Francia e la Spagna, questo fenomeno è esistito anche lì o no? Ebbene, in Francia ho trovato almeno una ventina di altri dirigenti politici che tra la prima e la seconda guerra mondiale hanno poi abbandonato la sinistra e abbracciato partiti filofascisti o fascisti come il Partito Popolare Francese di Doriot. Lo stesso Doriot, appunto, come ricordava Aldo, era un importante dirigente comunista negli anni 20 fino al 34. E poi la collaborazione con i nazisti durante gli anni dell'occupazione e del regime di Vichy. E in Spagna qualcuno meno c'è stato, però ce ne sono stati anche lì. Certo, la situazione spagnola è diversa, c'è stata una guerra civile di 3 anni, una guerra civile che, nel senso, recentemente sono stato a Alicante per una conferenza sulla violenza e consenso nel regime fascista italiano. Si parlava anche logicamente del caso spagnolo. E senza nessuna volontà di togliere colpe e responsabilità del regime fascista italiano, se facciamo una comparazione della violenza, della repressione tra quello che è stato il regime franchista e il regime fascista italiano, non c'è comparazione. Cioè, solo per dare alcuni dati, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato Fascista Italiano ha condannato a morte 42 persone tra il 1926 e il 1943. E di questi condanni a morte ne sono state poi insomma eseguite 31. Ci sono stati 17.000 persone al confino, le violenze squadriste del periodo fino alla marcia su Roma con circa 3.000 morti, quindi una cosa di un'importanza anche politica notevole. Se noi pensiamo che solo nella guerra civile spagnola nei primi anni del regime franchista ci sono stati tra i 150.000 e i 200.000 fucilati per ragioni politiche, ci rendiamo conto della violenza che c'è stata in Spagna. Quindi questo anche per spiegare la difficoltà che ci potesse essere un passaggio da un'ideologia e una militanza politica ad un'altra, e in ogni caso ci sono state. Con questo cosa voglio dire? Qui faccio un passo indietro e torniamo a bombarci. Se adesso andiamo in internet e mettiamo su Google mettiamo Nicola Bombacci, una delle prime cose che esce, a parte di Wikipedia, è la pagina dei neofascisti legati a Casa Pound e così via. Perché? Perché questa figura è stata fino a un certo punto comunque rivalutata dai settori della destra sociale, che rivalutano un Bombacci come dire l'ex comunista che ha capito che il fascismo era la vera realizzazione del socialismo, quindi noi teniamo da conto una persona di questo tipo che ci dimostra come il fascismo sia qualcosa di legato alla classe lavoratrice. Vabbè, niente di tutto ciò io credo sia vero, e soprattutto in questo libro mi guardo bene dal rivalutare personaggi di questo tipo e giustificarli. Quello che c'è però alla base è un discorso su e qui mi ricollego anche a quello che stava dicendo Aldo, su il perché di queste traiettorie. Perché alcune persone hanno deciso di abbandonare una militanza, un'ideologia, una fede politica come era quella socialista o poi comunista o anche sindacalista rivoluzionaria, in momenti in cui la politica contava molto nella vita quotidiana e nella loro vita, e dice di passare agli altri. Cioè, pensiamo, per esempio, ho trovato nel caso del francese studiato Paul Marion, ho trovato i documenti del processo che nel 1948 gli si fece per collaborazionismo, e Marion gli racconta un po' tutta la sua vita. E anche un altro francese che fu un importante dirigente comunista negli anni 20 fino al 31, Henri Barbet, fu poi espulso e poi collaborò anche lui con Vichy, ma già si era avvicinato negli anni 30 ai partiti fascisti francesi. E anche Barbet poi nel suo processo scrive poi dei mondiali che non è mai stato pubblicato, e raccontano questa cosa. Raccontano: quando noi siamo usciti dal Partito Comunista ci siamo trovati da soli, la nostra vita, la nostra famiglia, le nostre amicizie erano il partito. Nel momento in cui noi siamo usciti ci siamo trovati da soli davanti al mondo, senza soldi, senza amicizie, senza persone. Allora, con questo cosa voglio dire? Non voglio dimostrare come queste persone fossero degli eroi, lungi da me, e non è questo l'intento, ma è domandarsi perché allora questa persona ha fatto una scelta di questo tipo e l'ha portata avanti per anni, senza poi nella maggioranza dei casi ottenere dei vantaggi economici o appunto delle prebende per questa scelta, e l'ha portata fino anche in alcuni casi fino alla morte, cioè Bombacci alla fine insomma ha deciso dicembre 43, gennaio 44, quando Roma 5 mesi dopo sarebbe stata liberata, lui viveva a Roma, non aveva mai avuto cariche nel regime fascista, decide di andare a Salò, lo decide spontaneamente. Se fosse rimasto a Roma probabilmente avrebbe avuto dei mesi in cui insomma magari la sua attività pubblica meglio che se ne stesse in casa, però nessuno gli avrebbe fatto nulla, forse nemmeno un processo. Invece decide spontaneamente di andare a Salò, rimanere con Mussolini fino all'ultimo giorno, scappare quello che doveva essere il ridotto repubblicano in Valcamonica, arrestato poi sul lago di Como in direzione magari Svizzera, questo non si sa bene, e poi fucilato. Insomma, io credo che si ponga una questione, valga la pena essere studiata questa questione. Bene, la storiografia fino adesso non ha mai affrontato questa questione, né negli ambiti nazionali né per di più da un punto di vista comparativo tra i diversi paesi. Fino adesso sono sempre esistite, diciamo, due interpretazioni, quella più logica e quella dei traditori, una logica che ha un suo perché nella politica, cioè nel momento politico. Allora, che Bombacci fosse definito nel 1927, quando abbandona il Partito Comunista, un traditore, mi sembra bene. In un momento complesso a livello politico, il Partito Comunista sta facendo un'analisi politica di una scissione, di un abbandono, ma che 80 anni dopo ancora si utilizzino le stesse categorie di interpretazione mi sembra come minimo un po' riduttivo. Dall'altro si è parlato di opportunismo, ma se guardiamo la vita di alcune di queste persone l'opportunismo insomma non regge, e dall'altro poi si è utilizzata invece la teoria degli opposti estremismi, quindi gli estremisti si toccano, questo fa comodo a chi parla di totalitarismo, quindi insomma fascisti, nazisti, rossi e neri non erano poi così diversi, viva il liberalismo e il capitalismo che ci salverà, per banalizzare, cose che dopo l'89 hanno avuto ancora un maggiore consenso. C'era appunto a questo proposito una canzone, visto che abbiamo una serata un po' a mezzo con la musica, di Jean Troc nel 1968 in Francia, che proprio è abbastanza sintomatico per questo, cantava tutto, je suis socialiste, je suis comuniste, je suis capitaliste, parce que je suis opportuniste, quindi nel senso un pochino in questa logica. Quindi la storiografia fino adesso ha dato queste risposte. Bene, io quello che mi sono domandato, vedendo che ho trovato in 3 paesi più di 50 dirigenti politici sindacali abbastanza importanti a livello locale o anche a livello nazionale, che hanno vissuto una traiettoria simile a livello politico, che innanzitutto valesse la pena studiarlo, questo problema, e in secondo luogo domandarvi il perché. Allora, quello che ho cercato di fare, per cercare anche di, visto che la tematica è molto delicata a livello politico, come fare per studiarla allontanandosi dai rischi che possa essere strumentalizzato un tipo di analisi di questo tipo? Beh, ho pensato innanzitutto alla comparazione, allontanarmi solo da un contesto nazionale per vedere anche su più contesti nazionali che analogie, che differenze ci potessero essere. Innanzitutto puoi studiare la biografia, studiando la biografia, le fonti, i documenti, gli archivi, capiamo se davvero una persona ha fatto delle scelte anche per delle ragioni economiche o meno. In terzo luogo l'analisi del linguaggio politico, perché per cercare di capire se attraverso lo studio del linguaggio politico si potesse capire qualcosa di più di questi transiti. Cioè, solitamente quando si sono scritte le poche biografie individuali di politici che hanno avuto una traiettoria di questo tipo, si è solito studiare il discorso politico. Quindi cosa succede? Si mette di fronte il discorso di Nicola Bombacci nel 1920, che vuole proclamare la costituzione dei soviet in Italia e dice dobbiamo fare come in Russia, installare i soviet, un discorso del Bombacci del 1941 che dice il fascismo è la vera realizzazione del socialismo e la difesa dell'Europa cristiana è attraverso l'Italia fascista del Duce. Bene, se li mettiamo uno a fianco all'altro non hanno senso, dici queste persone sono contraddittorie, incoerenti. In realtà se si studia il linguaggio politico, cioè studiamo le parole della politica, che parole si utilizzano, quando si dicono delle cose, forse riusciamo a capire qualcosa di più. E con questo cosa voglio dire? Che se capiamo quali sono le parole che utilizzarono in questo periodo questi personaggi politici e le mettiamo a confronto con i grandi teorici della politica del periodo, quindi che parole utilizzava Lenin, Max Weber o i sociologi o Sorel o anche Maurras, dalla destra alla sinistra, o Gobetti o Amendola o lo stesso Gramsci, per pensare e fare la politica in quegli anni, negli anni 10, 20, 30 e 40 del secolo scorso, quali sono? Sono rivoluzione, sono partito, sono organizzazione, sono sindacato, e in alcuni momenti sono parole che poi scompaiono e ricompaiono in altro modo. Allora, vediamo come utilizzano questi personaggi, Nicola Bombaci, Paul Maglioni, Oscar Pérez Solís, queste parole, e che cosa ci dicono queste parole? Cioè, quando Bombaci parla di rivoluzione nel 1919-1920, cosa dice? Che cosa vuol dire realmente? Quando utilizza lo stesso termine nel 1939-1943, che cosa vuole dire? Allora, questo ci aiuta, io credo, a capire qualcosa di più di queste traiettorie, allontanandoci dai giudizi ex post, dai giudizi politici, dalle condanne che a livello storico non ci servono, anche perché ormai sono passati, dalla morte di Bombaci nel 1945 sono passati 70 anni. Cioè, allontaniamoci dalle condanne politiche, capiamoci qualcosa, perché questo ci serve anche per capire la realtà politica da adesso. E vorrei aggiungere un paio di cose solamente, dopo mi piacerebbe che magari ci siano degli interventi anche da parte di Aldo, da parte di Martino, del pubblico, e quindi magari venissero fuori altre questioni in un confronto, più che insomma io adesso spiegarvi che cosa ci sia o cosa non ci sia nel libro, al di là di insomma una contestualizzazione e un'idea. Innanzitutto una cosa che più o meno la troviamo in quasi tutti i personaggi, cioè nelle tre biografie che ci sono in questo libro, ma anche negli altri 50 profili biografici che ci sono all'interno del libro, cioè di tutti gli altri personaggi politici o sindacalisti che nei tre paesi sono passati dalla sinistra al fascismo. Cioè il passaggio non è stato immediato, non è stata una conversione sulla via di Damasco come San Paolo. Cioè ci sono voluti degli anni, per esempio nei tre casi in concreto, Nicola Bombaci abbandona il Partito Comunista nel 1927, fino al 1935 non fa nessuna dichiarazione di fede fascista, sarà una lettera a Costanzo Ciani indirizzata a Mussolini dove dice sì, effettivamente Mussolini aveva ragione nel 14 quando aveva sostituito il concetto di classe con il concetto di nazione, e è questo che muove la società, e quindi insomma il fascismo ha ragione, adesso sto banalizzando, però diceva questo. Beh, nel mezzo ci sono stati 8 anni dove Nicola Bombaci ha vissuto in Italia senza soldi, per i primi anni senza lavoro, perché non è andato in esilio, perché non ha cercato di fare altre cose, perché non ha cercato di ingraziarsi, poteva tranquillamente essere assunto nei sindacati fascisti come molti altri, eppure non l'ha fatto, l'ha fatto attraverso un'altra modalità. Paul Marion abbandona il Partito Comunista quando è un importante dirigente, ben pagato, nel 1929, dopo un anno e mezzo nella Russia Sovietica. Lo abbandona e si trova senza lavoro e comincia a collaborare con riviste, fino poi ad avere un lavoro nel 1936 all'interno del Partito Popolare Francese con Jean Guillaume. Cioè, anche lì ci sono 6-7 anni di transito. Oscar Pérez Solís è lo stesso, importante dirigente comunista di un minuscolo Partito Comunista, come era quello spagnolo negli anni 20, viene incarcerato nel febbraio del 25 a Barcellona durante la dittatura del generale Primo de Rivera, una dittatura filofascista, più autoritaria tradizionale che fascista, e in carcere si converte al cattolicesimo. Esce poi dal carcere e all'inizio milita nella destra socialista, nei sindacati cattolici, e poi a poco a poco si radicalizza fino alla primavera del 1936, quando appoggia il golpe di Stato della Falange, che poi sfocerà in una guerra civile nel luglio del 1936. Quindi anche lì è un passaggio che dura 7-8 anni. Allora, nel senso, c'è un'elaborazione di concetti, c'è un'elaborazione delle ideologie, del contesto politico e storico nel quale stanno vivendo questi personaggi. E poi, per riassumere brevemente, quello che a me interessava non era solo raccontare tre vite, che certo mi interessa molto anche perché sono vite interessanti in certo qual senso avventurose, che attraversano decenni chiave del, del secolo scorso, ma poi anche capire quali potessero essere le analogie. Allora è logico che se noi prendiamo ogni biografia, sono uniche di per sé, come la vita di chi è qui oggi e di tutti noi, cioè abbiamo dei punti in comune, ma le differenze sono sempre di più che le analogie. Ma alcune analogie ci sono, soprattutto dalla prospettiva attraverso la quale cercavo di guardare queste biografie. Una è per esempio quella che dà titolo al libro, che secondo me è chiave. Forse Aldo giustamente si domanda, magari ha dato troppa centralità a questa, a questa questione, cioè quella della nazione, però... No, lo capisco, che cioè, dico che dai meno spazio al parlamentarismo, però non è che mi meraviglio che tu dia spazio. No, certo, beh, quello che secondo me era centrale era proprio il discorso che ci potrebbe essere una critica del parlamentarismo, però questa non sfocia nell'abbracciare il fascismo, mentre nel momento in cui si sostituisce la classe con la nazione, 9 volte su 10 si approda in quel contesto storico al fascismo. In ogni caso, di questo poi magari ne parliamo, ma gli altri punti in contatto sono per esempio una grande centralità che si dà nella pratica e nella teoria politica all'azione, al dinamismo, alla prassi, vista tanto come incessante attivismo politico e anche come concezione della politica come azione, cioè pensare alla politica come azione, cioè per queste persone la politica era la vita, fuori dalla politica non c'era nulla, nel senso non c'era una vita sociale che potesse esulare dalla politica, allontanarsi dalla politica. Poi l'importanza dell'elite, l'importanza dell'idea del partito, il partito come avanguardia del proletariato, poi non del proletariato logicamente nel passaggio, e un'idea negativa delle masse, del popolo. Poi una fede nella rivoluzione, la rivoluzione in un senso appunto ambiguo, se la vediamo da una determinata prospettiva, però l'idea di dover fare una rivoluzione, la presenza dei nemici comuni, cioè il parlamentarismo, la democrazia liberale, il capitalismo, la borghesia, e poi una concezione che questo sembra ambiguo se pensiamo al marxismo come l'idea della dialettica marxista e quindi del materialismo storico, però un'idea fortemente antimaterialista della politica e della società. Cioè, questo si vede fino a un certo punto, nel momento in cui questi personaggi hanno una militanza marxista, ma poco a poco si capisce in un momento successivo, e questo è simile anche alla traiettoria di Mussolini tra il 1912 e il 1922, cioè insomma abbandonare il Partito Socialista, abbracciare l'idea dell'interventismo nella prima guerra mondiale. Cioè, ma in sé di genere, se analizziamo il discorso politico e il linguaggio politico del Mussolini socialista, in cui l'antimaterialismo ha una grande importanza, Zev Stern per esempio l'aveva messo in luce, secondo me ci aveva visto bene. E infine un'ultima cosa, e qui vorrei chiudere, io ne parlo solo nelle conclusioni ma ci sto lavorando da anni, che è l'idea della passione della politica. Allora, questa questione va molto al di là dei Bobacci, dei Marioni, dei Pérez Solís, però si ricollega, io credo, al Novecento. Cioè il Novecento è sempre stato visto come, è sempre stato visto dal 1989, da quando Fukuyama scrisse quel famoso e drammatico libro sulla fine della storia, è stato visto come il secolo della violenza e della barbarie. Cioè il Novecento, ormai se tutti ci pensiamo, è il secolo dell'olocausto, dei campi di concentramento, del gulag. Cioè sembra che fuori da tutto questo e della bomba atomica sganciata dalla democratica amministrazione americana, esattamente, però nel senso comunque morte e terrore. Il Novecento non è stato solo questo, il Novecento è stato un secolo di grande creatività e invenzione politica, determinate idee politiche hanno portato poi delle tragedie, questo è indubbio, ma non bisogna togliere la positività di questo secolo. Allora, io credo che questi personaggi siano, come tanti altri, che non hanno avuto traiettorie di questo tipo, cioè i Gramsci, piuttosto che il Largo Caballero, piuttosto che i Toré, anche in Francia, ma molti altri, anche non per forza di sinistra, dimostrano la centralità della passione della politica nel Novecento. Questi personaggi, in fin dei conti, ne sono una dimostrazione in carne ed ossa, e della perversione che può vivere anche la passione della politica. Cioè quando si ha una passione della politica piuttosto che abbandonare la politica si dice per pervertirla in un certo qual senso, di trasformarla in qualcosa che sembrerebbe l'opposto. Su questo, insomma, la riflessione complessa, so che Aldo magari è un po' critico, però insomma così diamo anche un po' largo magari al dibattito degli interventi. E su questo chiuderei per non allargarmi di più, perché sennò poi si fa tardi. So che il Sesto Marelli era un altro pezzo, quindi io direi se loro ci sono un'altra canzone, dopo magari apriamo un po' il dibattito, gli interventi da Aldo, Martina, insomma tutti voi. Grazie. L'altro pezzo che tratto dal nostro disco, si chiama Ricurde, sostanzialmente è un po' dedicato, per quanto populista tutto questo possa sembrare, a quelli che in realtà riescono in varie situazioni e trovare diversità a restare sempre immutabilmente in piedi, intangibili, praticamente gente che pensavo avesse dovuto andare da Roma a Salò, che è venuto quest'altro, minimo ci sarebbe stato lo sciopero dei treni, secondo me. E quindi questo è il conte, che in realtà è una mazurka, mentre penso che sostanzialmente una monarchia per investitura divina certamente non è un sistema equo, ma è risolutore di molti problemi. Oh, siccome abbiamo ancora 20 minuti, minuti a disposizione, io coglierei l'invito di Steven, se qualcuno vuole intervenire è il momento giusto per farlo. Io poi ho un paio di cose da dire, ma prima sarebbe bello se ci fosse qualcuno dal pubblico. Sì, io più che altro una curiosità rispetto all'Italia, cioè i dati che ho trovato nella ricerca che ho fatto, il fatto che Mussolini sia praticamente passato di certo, non è passato direttamente, però il suo passaggio comunque al fascismo, cioè ha portato con sé molti quadri socialisti, cioè c'è stato un seguito immediato di Mussolini, per cui anche la figura di Bombacci in quel senso non è più tanto strana, come dire, o no? Molto. No, allora nel senso, ci sono alcuni quadri soprattutto del sindacalismo rivoluzionario che seguono Mussolini o che hanno, diciamo, un'interpretazione della guerra mondiale, del contesto politico, della scelta da fare riguardo a intervenire o no, simile a quella di Mussolini nel 14-15, ma il PSI è assolutamente neutralista, cioè non c'è nessun dirigente che agisce con Mussolini dal PSI. Ci sono i corridori, c'è tutto il settore dell'interventismo sindacalista rivoluzionario, De Arco, Scorridoni, Dinare, così qualche repubblicano. Qualche repubblicano, quelli che vanno anche con i garibaldini all'inizio, però insomma che sono in sintonia con la scelta di Mussolini dell'ottobre-novembre del 14. Ma poi quello che si... Mussolini in quel momento è un giornale e basta, non è una corrente politica organizzata, non ha dietro. Senza la guerra e il reducismo Mussolini non sarebbe stato niente. No, la grande idea di Mussolini è quella della trincerocrazia, cioè come concetto, cioè dire cosa ne facciamo di tutti questi reduci, cioè utilizziamoli politicamente. Poi certo, Mussolini è un'evoluzione che il Mussolini del 1913 non è quello del 1919, assolutamente. E, mentre poi molti di questi dirigenti... Ancora 14 per la settimana rossa. Appunto, sì, quello è sì, anche quello del primo articolo sulla guerra che è neutralità assoluta, poi cambia nell'ottobre, novembre. Ma dirigenti come Bombacci hanno un'evoluzione che è successiva alla marcia su Roma, cioè Bombacci fino al 35 ti dicono non si dichiara, non si sente, non fa nessuna dichiarazione di fede fascista, fino al 29 lavora all'ambasciata sovietica. Lui nel 23 viene espulso dal Partito Comunista per un intervento che fa la Camera dei Deputati. 30 novembre del 23, in cui su indicazione di quello che era il delegato sovietico in Italia, l'inviato della Russia sovietica in Italia, non era ancora l'ambasciata perché non era stata riconosciuta la Russia sovietica dall'Italia, quindi non c'era un'ambasciata, fa una dichiarazione dicendo praticamente, rivolto a Mussolini che era già presidente del governo, se lei si considera un rivoluzionario perché non riconosce la Russia rivoluzionaria, perché tra i governi rivoluzionari dovrebbe esserci un'intesa. Questo portò il comitato centrale del PC, già in esilio in parte, a espellere Bombacci, però Bombacci fu riammesso nel gennaio del 24 da Zinoviev e dall'Internazionale Comunista, però ritornato in Italia non lo si candidò nemmeno più alle elezioni dell'aprile del 24, praticamente insomma non ebbe più nessun ruolo dentro il PC, però i sovietici gli diedero da lavorare nell'ambasciata sovietica in Italia come una specie di ponte commerciale e di contatti anche diplomatici tra l'Italia e la Russia, fino poi questo al 29-30. Però tornando alla tua domanda, come lui tanti altri, un altro esempio per esempio che parlavamo prima con Aldo per altre questioni su invece cioè come c'è un movimento dalla sinistra al fascismo negli anni 20-30, ce n'è un altro anche di cui si parla poco, che è dopo il 45, da molti settori del fascismo, repubblichino o non repubblichino, alla sinistra, che sia sindacale, UIL soprattutto, ma anche CGL, ma anche politiche in un certo qual senso dentro il PC, negli anni 40-50, cioè dall'altro lato, cioè dal fascismo alle sinistre. Allora, nel senso, l'idea del transito, l'idea di domandare come da un'ideologia politica, da una militanza da un partito all'altra si possa passare a un'altra, insomma, rimane soltutto il Novecento. E poi se pensiamo più vicino a noi, per quanto ci possa sembrare ridicolo, cioè ci possono sembrare ridicoli personaggi come Giuliano Ferrara, come Bondi o come Livori, questa gente viene da una militanza giovanile che io credo comunque sincera, o nel PC o nell'estrema sinistra. Questi sono i veri delitti del comunismo. Ferrara, è questo. Comunque, E un'altra persona interessante, Amilcare De Auris, fratello di Alcesta De Auris, sindacalista rivoluzionario, non interventista nella prima guerra mondiale, con Alcesta De Auris, con il fratello, uno dei grandi eroi della resistenza di Parma nelle giornate dell'agosto del 22 agli attacchi delle squadre fasciste, una delle poche risposte vincenti della sinistra in quel momento alla violenza squadrista. Si esilia nel 23, ritorna in Italia nel 24-25 e nel 27 entra nei sindacati fascisti. Si sposerà con la figlia di Corridoni, con la sorella di Corridoni, attraverso questo, insomma, e poi nel 43, quindi proprio la vita di De Ambris è proprio sintomatica di come ci possa essere un continuo passaggio, nel senso, rimanendo anche credo coerenti in alcune questioni. Nel 43 poi invece si allontanerà dal fascismo già prima della caduta del fascismo con gli scioperi di Torino del marzo del 43 e così via, appoggerà in un certo qual senso comunque i partigiani, lui viveva nelle Marche, e poi nel 47 fonderà il movimento sindacalista italiano che poi confluirà nella CGIL e poi nella UIL. Quindi nel senso, la figura di Mussolini ha un valore più che per i passaggi e il momento storico come esempio. Cioè Bombaccio quando dice a Mussolini, quando scrive anche pubblicamente, ho capito di aver sbagliato, ho capito che la centralità ce l'aveva la nazione e non la classe, fa riferimento al modello di Mussolini, quindi rimane lì perché è il primo, ma nel momento stesso del passaggio di Mussolini, dell'abbandono di Mussolini del socialismo e del creare qualcosa di nuovo che non si sapeva cosa fosse, c'è poca gente che lo segue. A proposito di trasmigranti, quello che diceva Steven sulle vere colpe del comunismo, Ferrara, questi qui, posso dirvi di una mia recente scoperta storiografica: la richiesta della tessera del Partito Comunista Italiano nel 1976 da parte di Emilio Fede. Quella però ce la siamo risparmiata, non ci è andata bene. Dunque, respinse la domanda il segretario della sezione RAI, perché il PC aveva, come la sezione universitaria, c'era la sezione RAI, che era il ben noto critico musicale, e tra l'altro c'è solo sua la lingua. No, che tra l'altro è un mio amico che incontro sempre al concerto Marchesi. Grazie. No, la miseria, sto proprio ingrandito. No, non è stato la Rai Novarino. Vabbè, mi verrà in mente, ex partigiano anche, il quale gli rifiutò la tessera, e quando Fede disse perché, perché tu non sei comunista, dice vabbè, non ce ne sono tanti che non sono comunisti per PC. Però no, gli era rifiutato. Poi se mi verrà in mente il nome parlavi della passione politica di questi uomini, ma allora non può essere che comunque a un certo punto della tua vita hai una grande delusione rispetto a tutte le aspettative che avevi, che hai investito in questa passione politica, e passi dall'altra parte quasi, perché non rimane la tua passione, però hai questa grande delusione e vai completamente dall'altra parte a cercare qualcosa di diverso che non ti ha soddisfatto, insomma, la prima scelta. Questo me lo disse una volta un mio amico che era di lotta continua, poi era passato al PC e poi passò a Comunione Liberazione, e lui mi rispose: resto in politica. Che è una forma di coerenza. Sì, no, però io credo che quello che è molto differente, per esempio, dai casi di transito, non di Fede, ma di Ferrara, di più recenti. Insomma, non vogliamo mettere Ferrara con Bombacci. Appunto, insomma. Magari Bombacci fosse Ferrara con Bombacci, anche un po' più magro sarebbe stato. Dai. No, comunque, quello che io credo centrale è anche la figura del partito, che è una figura prettamente novecentesca. Cioè, il partito ha canalizzato le passioni politiche, quindi c'è anche una necessità da parte di questi individui di avere un partito che canalizzi queste passioni politiche, Allora, nell'Italia del 1933 che partito esiste? Allora, o vai all'esilio, oppure se vuoi fare politica c'è questo, poi certo, non è l'unica ragione, infatti secondo me, io parlo di passerelle, le passerelle sono quelle che ti permettono il transito da una famiglia politica all'altra, quelle che dicevo per esempio la critica al liberalismo, alla democrazia borghese, accettare la sostituzione della classe con la nazione, l'importanza delle elite politiche, la critica delle masse. Ok, una di queste è anche la passione politica, nel senso anche di vedere come la passione politica sia canalizzata dai partiti. Allora il partito canalizza la passione politica. Lo stesso Marion nella Francia del 1933, cioè a parte il Partito Comunista non c'è nessun grande partito che canalizzi le passioni, ci sono delle clientele. Allora lui ci prova prima per esempio con i neosocialisti, cioè una scissione di destra della sfida del Partito Socialista Francese che cerca di vedere anche nel planismo di De Man, quindi in una programmazione, una pianificazione dell'economia come una terza via tra socialismo e fascismo, la modalità, però è un partito che non ha presa. Quando nasce il Partito Popolare Francese, che è un partito con un modello comunista come base, però con un'ideologia che va al di là delle destre e delle sinistre, invece lui si dà corpo e anima in questo progetto, e è quello che farà poi quando sarà segretario generale, che era una specie di vice ministro a Vichy. Lui si occuperà di propaganda, perché era un responsabile sempre stato dal Partito Comunista Francese ai neosocialisti, al Partito Popolare fino a Vichy, della propaganda e dell'informazione. Però quello che farà sarà tutto canalizzare anche queste cose, quindi con una centralizzazione chiarissima. Allora secondo me questo, sicuramente quello che dici è vero, però sempre pensato in una logica dell'esistenza di un partito che organizzi la società e che canalizzi queste passioni. Cioè le passioni, anche l'idea delle passioni secondo me è centrale anche per un'altra ragione, cioè per un'altra questione che prima non ho sottolineato, credo, e credo che vada sottolineata. Cioè quando si pensa e si parla di passioni si pensa sempre in qualcosa di puramente irrazionale, no? Le passioni è qualcosa di irrazionale. Invece le passioni possono essere molto razionali, dipende come si declinano. Ci fu un libro, è stato credo anche in Spagna, è stato pubblicato da poco, in Italia forse, ma non lo so, degli anni 70, di Albert Hirschman, uno storico soprattutto dell'economia. Però scrisse un libro meraviglioso che si chiamava Le passioni e gli interessi, se non cito male, e parlava, metteva in luce come nei grandi pensatori del pensiero moderno, da Machiavelli fino ad arrivare ad Adam Smith, ci fosse dove si sono spesso messi in luce la razionalità, gli interessi, cita per esempio Cartesio, Locke, Hobbes e molti altri, ma lo stesso Smith, ma questi interessi in realtà c'è tanta importanza data agli interessi quanto data alle passioni. Il discorso è che poi l'importanza delle passioni non se l'è, insomma, non gli si è data tanta importanza poi quando si è elaborato il pensiero di questi intellettuali. Allora cosa voglio dire con questo? Che le passioni sono fortemente razionalizzabili, dipende come si concepiscono, come si analizzano. Gramsci, questa la cito perché mi sembra molto esemplare, perché tra l'altro è di Gramsci. Eccola qui. Gramsci in uno dei quaderni degli iscritti al carcere dice: la politica è azione permanente e dà nascita a organizzazioni permanenti in quanto appunto si identifica con l'economia, ma essa anche se ne distingue, e perciò può parlarsi separatamente di economia e di politica, e può parlarsi di passione politica come di impulso immediato all'azione che nasce sul terreno permanente e organico della vita economica, ma lo supera facendo entrare in gioco sentimenti e aspirazioni nella cui atmosfera incandescente lo stesso calcolo della vita umana individuale ubbidisce a leggi diverse da quelle del tornaconto individuale. Allora quello che dice Gramsci mettendo in relazione politica con l'economia attraverso la passione politica lo fanno anche molti altri, quindi in un certo qual senso io credo che ci aiuti a pensare alle passioni in una forma razionale. Con questo cosa voglio dire? Che le passioni ce ne sono di diversi tipi. Ci sono passioni positive e passioni negative, non è che ci sono solo delle passioni in generale. Le passioni positive sono delle passioni che hanno come centro l'amore e il coraggio, delle passioni negative quelle che invece invece guardano all'odio e alla paura. In questo io credo che ci aiuti anche a capire la differenza, cioè, e qui torno all'inizio, facendo forse un po' di confusione, ma adesso mi capirete. Stavo dicendo, il rischio di parlare di questi personaggi è dire gli opposti estremisti si toccano, no? Una delle interpretazioni che c'è. I rossi e i neri non sono così diversi, questi passano da una parte all'altra e in fin dei conti è la stessa cosa. Bene, se parliamo di passioni e diciamo questi pervertono la loro passione, però ma non c'è molto di più, cioè non si mette in discussione l'idea degli opposti estremisti. Se però capiamo che le passioni possono essere di diverso tipo, invece sì che forse riusciamo a capirci qualcosa di più, no? Riusciamo un po' a quadrare il cerchio. Cioè, e con questo sto banalizzando molto, socialismo e comunismo sono delle passioni positive, che dopo abbiano avuto delle derive anche mortifere, come possono essere stati il gulag o la violenza e la repressione, è un altro discorso, però sono delle passioni positive, cioè quello che riguarda è l'amore e la giustizia sociale. Sì, io sono contraria al discorso proprio degli estremi, estrema. Si toccano. Che si tocca, no? Certo, poi mentre negli anni 70 c'era tanto questa cosa e mi dava un fastidio terribile perché non era vero. Io vedevo che in estrema sinistra avevi delle idee. Beh, ci toccavamo in modo piuttosto brutto. Sì, ci toccavamo in modo abbastanza. Eravamo extraparlamentari, non si poteva assolutamente dire che era la stessa cosa. Appunto. No, no, ma appunto diciamo che. Mentre il fascismo, appunto, questo è promosso da passioni negative. Quindi l'odio, la paura, cioè. Nel senso, se pensiamo al fascismo o al nazismo, banalmente, cioè c'è sempre un nemico, quindi la logica dell'amico nemico, che in alcuni momenti è vero che anche c'è stata nelle sinistre, però in forma diversa e con risultati diversi. Allora la riflessione sulle passioni politiche vorrebbe essere una forma anche per capire qualcosa di più di tutto ciò. Anche per noi c'è l'amico e il nemico. La dialettica del nemico è comune a qualsiasi forza politica. Per me i fascisti restano nemici. Sì. Quindi alla fine non è che però il discorso mi ritenga tanto migliore di loro, lo faccio per idealità diverse, ma in questo i meccanismi di pensiero, i meccanismi psicologici sono uguali. Però il discorso che non cerchi un nemico che sia possa essere o il comunista o l'ebreo o l'abessino o il repubblicano spagnolo che sia un nemico da ambientare, legato anche a una politica di imperialismo. Senti, c'è sempre un motivo per avere un nemico, c'è sempre un buon motivo. Stiamo facendo i confronti degli immigrati adesso dal punto di vista proprio culturale, di attacco violentissimo. Sì, la destra, mi riferisco non la sinistra. La stessa ragione per cui noi guardiamo con un certo atteggiamento ai leghisti. Quello che sto dicendo io è che questo è un fenomeno chiaro in una passione politica come quella fascista. Cercare un nemico, ma non nell'altra, per quello che parla di passioni positive e passioni negative. Forse non sono stato chiaro. No, scusa, vabbè. Vorrei dire una cosetta, perché quando ho visto prima la relazione, mi sono posto il problema della relazione come elemento che individua una classe, cioè soggetti che hanno interessi comuni e mettendolo in un contro l'altro. Mi viene in mente anche il discorso degli immigrati, cioè, che sono altro da noi in quanto appartenenti ad altre nazioni. Contemporaneamente coloro che hanno proposto la nazione sono quelli che l'hanno superata da un'altra parte, con i monopoli, con tutte queste robe e con una economia che va al di sopra. Ecco, hai affrontato un po' l'altro tema, io dico non questo, però questo aspetto mi sembra così, se vuoi tirarlo fuori un po' di più, perché dal titolo io mi aspettavo. No, sono d'accordo con te, però la tua analisi è, diciamo, della seconda metà del Novecento. Io sono di quelle. No, certo, però le biografie che studio sono fino, diciamo, tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi certo il capitalismo e una certa globalizzazione dei mercati c'era già, ma non come la stiamo vivendo ora, quindi con tematiche come quella dell'immigrazione, quella della. Non so, le istituzioni superiori europee di questo tipo. Ma c'erano le colonie. Sì, ma comunque è diverso. È un principio di arrivare, comunque anche l'ebreo, cioè non si sono svegliati la mattina, è stato un lento, cioè il fatto del diverso, comunque, come si parla oggi, del migrato, poi più o meno la stessa cosa. violento, cioè proprio una campagna di tanti anni di odio, finché la gente veramente ha creduto che l'ebreo era diverso, era quello che non doveva più esistere, perché cioè per cui era così un po' diverso. Quindi forse quello che voleva dire anche lei è che forse anche il concetto oggi di migrazione si può relazionare a quello che è avvenuto poi per arrivare, non so se devo spiegare. Sì, no, ma assolutamente, cioè nel senso quello che quando io dicevo con passioni politiche negative è questo, cioè avere al centro della propria passione politica l'odio, non l'amore, invece che la giustizia sociale, avere la paura, quindi la paura dell'altro, che la paura dell'altro fosse l'ebreo o fosse il comunista nel 1920-22 con la marcia su Roma, poi l'ebreo con le leggi razziali durante la seconda guerra mondiale e ora sia l'immigrato, è la stessa logica, che muove quell'ideologia politica. Dopo ci sono un contesto politico, ideologico diverso, però senza dubbio. Probabilmente quel che è un po' forse paradossale e che però accade è che quello che c'è di passione positiva nel pensiero comunista, che effettivamente è una bella espressione quella della passione positiva, però al momento di concretizzarsi poi in una forma Stato, quindi una forma istituzionale di potere, inevitabilmente vede una parte di passione negativa prende sopravvento, cioè ha bisogno di crearsi il nemico, ha bisogno di crearsi, ma in fondo è anche proprio il nuce del suo pensiero, ha bisogno di crearsi una struttura fortemente negativa, fortemente negatrice dell'opposizione. Quindi cioè, in questo senso, ecco, non sono opposti estremismi, però sono delle sfumature secondo me che si possono rilevare, forse troppo ovvie. Mi inserisco un secondo perché la discussione è interessante, ma ha mangiato tempo e siamo. Però vi direi, state pronti perché a questo punto potremmo concludere con uno o due o quanti brani musicali volete, soltanto i tempi. Però vorrei dare tre suggestioni rapidissime, se non c'è nessun altro che vuole intervenire, per andare un po' a chiudere, e ve le sottopongo a entrambi, poi rispondete come volete, che un po' si innestano su quanto si è detto finora. E uno è un tema che parte sempre dal libro che tu hai affrontato prima parlandone, e che però secondo me è attualissimo oggi, e in cui il tuo libro si inserisce come un esercizio molto valido proprio per approcciarsi all'oggi, che è il tema del linguaggio. Con alcuni ne abbiamo parlato nei giorni scorsi in un'altra lezione con un docente che si chiama Alessandro Colombo, che ha scritto un libro importante che si chiama Tempi decisivi, e che fa una riflessione molto approfondita sul fatto che come fai anche tu nel libro, un'analisi del linguaggio per capire le parole di quel tempo, rivoluzione, cambiamento, eguaglianza, è un esercizio importantissimo. Ed è un esercizio importantissimo oggi, in cui siamo in un momento di crisi del linguaggio, in cui tutti parlano di cambiamento, tutti parlano anche di rivoluzione, utilizzando termini alle volte molto forti, ma ci si chiede un po' quale sia il reale significato di queste parole oggi, anche nella pratica politica a cui tu hai fatto riferimento. Quindi a maggior ragione, questo per dire che il libro ha un valore prezioso, perché è davvero un esercizio in parole che oggi ritornano e che però hanno avuto significati importanti e diversi in periodi importantissimi del Novecento. L'altra cosa, però forse ci siamo già un po' persi prima, quindi non so se vuoi fermarti un attimo, prima tu dicevi che sul discorso delle passioni politiche potresti avere opinioni diverse, volevo chiedere ad Aldo se fa un passaggio per esplicitare queste eventuali opinioni diverse, ma se ho capito bene, se no... Non l'ho capito. Se no, esatto. Ma quello che poi mi hai detto un po' prima, cioè sul discorso della... E l'ultima, aspetta che finisco le domande così poi chiudiamo, l'ultima domanda che magari tira un po' le somme della serata è oggi abbiamo parlato di nazione, abbiamo parlato di classe, abbiamo parlato di sostituzione del concetto di nazione al concetto di classe, che apre tutta una serie di scenari che sono nel libro e non li stiamo a ripetere. Domanda ad Aldo, ma anche a Steven, che lo segnalo è anche un attento osservatore studioso di fenomeni contemporanei, per esempio sta osservando con molta attenzione il fenomeno Podemos in Spagna, che non è solo un fenomeno legato ai movimenti della sinistra, ma che pone dei problemi anche rispetto al tema della nazione, cioè nazionale spagnolo, repubblicano, insomma è un tema molto complesso. La domanda brevemente è: sta tornando la nazione e come? E quale concetto di nazione sta tornando? Se sta tornando, lo chiedo ad Aldo perché so che su questo si sta interrogando parecchio, e però mi verrebbe da dire, se vuoi dire qualcosa, verrebbe da dire però che se la nazione forse torna, delle classi per il momento purtroppo non vediamo tanto l'ombra. No, non è così. Questo è l'errore di sempre della sinistra, di ritenere classe e nazione con le concetti autoescludenti. Sì. Non è così. La sinistra ha sempre perso su questa cosa. Nazione non è un concetto in sé negativo o di destra. Senza il concetto di nazione non c'è il concetto di democrazia, ce lo vogliamo mettere in testa o no? Il concetto di nazione fonda l'idea dello Stato in cui c'è produzione di norme legate a una cultura, perché senza quello non lo fai, e c'è soprattutto una partecipazione su valori condivisi, che sono quelli appunto i valori culturali dell'ambiente nazionale. Questo poi non esclude che ci sia la dimensione della classe, che può essere trasversale alle nazioni. Ricordiamoci una cosa, il marxismo non è cosmopolita, è internazionalista, e l'internazionalismo ammette l'idea di nazione, se no che internazionalismo è? È del pensiero liberale, liberista di Wall Street, il cosmopolitismo, che teorizza questa specie di supernazione che è la classe di Riccolandia. I signori che scelgono il paese a cui pagare le tasse o non pagarle, che si frequentano fra di loro e che rappresentano un'elite mondiale totalmente sradicata dagli ambienti nazionali. Anzi, il concetto di nazione valorizza in qualche modo quello di classe. Però l'ora è troppo tarda per questo tipo di... Ti faccio allora una questione, perché sono in parte d'accordo con te, però dopo si pongono altri problemi. Per esempio, sì, hai citato la Spagna. La questione catalana o la questione dei nazionalismi periferici, come analizzare allora lì, al di là che poi ogni situazione ha delle realtà completamente diverse, la contestualizzazione diversa, politica, ideologica, di forze politiche, di relazione con la società, perché per esempio se ne parlava anche recentemente sulle Monde Diplomatique, come in realtà i grandi capitali sia favorevole allo spezzettamento degli stati-nazioni esistenti, perché sono degli stati-nazioni molto più deboli. Ma allora se guardiamo sul principio di nazionalità e sulla relazione tra classe e nazione, ora sì, Stefano, cos'è la nazione? Chi è nazione? Il problema è che non ci siamo messi d'accordo su questo. La Catalogna è una nazione distinta e separata da quella catalana e da quella castigliana? A me i catalani stanno pure simpatici, anche perché erano l'anima antifascista, democratica e di sinistra in Spagna, come i baschi, stanno molto simpatici. Ma se adesso facciamo uno spezzatino per cui la Scozia, sapete quante sono le rivendicazioni di indipendenza o di autonomia nazionale attualmente presenti in Europa? Sono 146. Il tutto si articola per 540 regioni. Ci sono addirittura richieste di recuperare l'antico istituto della città libera. Quando avremo fatto una frittata di microstaterelli, città libere, contadi e perché no vescovi conti, e avremo lasciato le decisioni centrali più importanti a un'elite mondiale, che cosa avrai guadagnato in termini di democrazia? Assolutamente niente. Allora, un momento, mettiamoci d'accordo prima su cos'è nazione e cosa non lo è, anche perché io ho questi intrugli per cui vuoi l'indipendenza dalla Spagna, ma per restare all'interno dell'Unione Europea, perché ti stai separando? Me lo vuoi? Capisco che i madrileni hanno fatto di tutto per farsi odiare, riuscendo pienamente. Posso capirlo, però onestamente. Allora a questo punto perché non i veneti? Perché non i friulani? I friulani hanno anche una loro identità nettamente diversa, anche linguisticamente diversa, non sono di ceppo neolatino. E i sardi? Guardate che se partiamo con questo criterio arriviamo alla nazione indipendente del condominio in piazza Fucio. Anche perché non pensate che tutte le rivendicazioni siano dettate da nobili questioni culturali, eccetera. Se domani scoprono il petrolio in Abruzzo e gli abruzzesi realizzano che non hanno nessun interesse a pagare il debito pubblico italiano e cominciano a teorizzare che gli antichi abruzzi non erano latini e che quindi loro hanno diritto all'indipendenza, ma al diavolo, su altra pazienza. Cominciamo a dire fesserie, mettiamoci d'accordo su che cosa significa essere nazione oggi. Essere nazione oggi, non nell'Ottocento. Vabbè, ma data allora, l'ora. Esatto, io devo fare il cattivo. Però direi che questa discussione finale ci dimostra come il tema non sia affatto risolto e che quindi insomma, ci sarà da discutere. Io prima di lasciare il microfono e gli strumenti ai Sesto Marelli che ci accompagnano alla conclusione, però ne approfitto un'ultimissima volta per ringraziare Steven e augurargli buon lavoro e buona fortuna per il prossimo. Aldo per la sua presenza e i suoi interventi che sono sempre preziosi. Il Sesto Marelli per anche loro, un grande in bocca al lupo per il loro lavoro percorso, e voi che siete stati con noi e ci avete fatto compagnia. Buon ascolto e poi buona serata. Se in Puglia trovi il petrolio, vedi la roba della luce. Stanno facendo perforazione. Questo è un altro brano che non c'è nel nostro disco, però è importante perché è sempre scaturito dalla collaborazione, quindi dalla conoscenza di Steven. L'adattamento in italiano fatto da Sergio Secondiano Sacchi, di un brano di Lou Reed che si intitola Walk on the Wild Side, tratto dalle visite al Transformer, parla di travestitismo, perché, cioè, rispetto a quello che abbiamo detto stasera, se vogliamo può essere una chiusura, speriamo ironica e divertente, non sono andato a pensare ai grandi perché tra la solista.